L'impressione è stata veramente sconcertante, molto forte, e subito ha generato una grande preoccupazione in tutti noi e in tutte noi che viviamo di scuola, viviamo dentro la scuola e dentro la scuola siamo portatori e portatrici di valori importanti, quelli della Costituzione, valori democratici che vanno sempre difesi. E il fatto di vedere proprio davanti a una scuola un'aggressione così brutale nei confronti di ragazzi, di giovani, e nello stesso tempo l'impossibilità di poter reagire tempestivamente contro questo attacco ha suscitato una forte preoccupazione, ecco, una preoccupazione che abbiamo cercato di convogliare in una iniziativa importante, forte, di carattere nazionale, che si concluderà nella manifestazione che faremo proprio a Firenze sabato prossimo. E da lì parte un'iniziativa importante che organizziamo insieme alla CGIL dell'Emilia Romagna. Proprio stamattina è partita la macchina organizzativa che ci consente di attivare su tutto il territorio regionale iniziative di raccolta di adesioni per partecipare a questa manifestazione. Abbiamo un obiettivo molto alto di 700 persone da portare a Firenze. Credo che l'obiettivo sarà centrato totalmente, perché in queste ore stanno aumentando e crescendo il sostegno a questa iniziativa, insomma, di forte valenza antifascista e democratica. Dopo il pestaggio c'è stata una bella lettera della dirigente scolastica del liceo, però è stata tra virgolette censurata dal ministro dell'istruzione Valditara. Anche questo non vi piace? Anche questo non ci piace. Il ministro dell'istruzione e del merito ne combina, si può dire, una più di Bertoldo. Tutti i giorni esce con un'esternazione che è totalmente centrata rispetto all'obiettivo. Nei riguardi della dirigente è avvenuto un fatto molto grave. La dirigente è una pubblica ufficiale, ha il diritto dovere di comunicare ai propri studenti, alle famiglie, a tutto il personale il valore e riproporre il tema, il valore dell'antifascismo e dei principi fondanti la nostra Costituzione. Lo ha fatto nel modo più garbato possibile, prendendo parte ad una discussione, come giusto fare in questo momento, e d'altra parte stiamo parlando di una pubblico ufficiale che dirige una scuola pubblica e che ha il dovere di lavorare, operare, trasmettere i valori che sono costitutivi e fondanti della nostra Costituzione. Insomma, la scuola è una comunità educante fatta di principi, di costruzione del pensiero critico, e noi ci opporremo in qualsiasi modo, qualsiasi forma di censura nei confronti della libertà di espressione, della libertà al diritto di insegnamento, e soprattutto saremo vigili di fronte a qualsiasi atteggiamento, in questo caso del ministro, del governo, che voglia in un qualche modo punire, colpire l'azione che noi giudichiamo corretta e giusta della dirigente. Ma cos'è, ecco, che ha dato fastidio a Valditara? Proprio l'antifascismo? Secondo me sì. Io penso che sia abbastanza evidente l'allergia che questo ministro e questo governo purtroppo ha nei confronti dei valori fondanti della nostra Costituzione. Peraltro, come abbiamo già detto, ricordiamo a tutti che questo ministro insieme a tutti gli altri ha giurato sulla Costituzione repubblicana, e quindi credo che proprio a partire dall'articolo 1 della stessa Costituzione fino ad attraversarla in tutti, non solo nei suoi principi fondamentali, ma in tutta la sua costruzione, ci sia quello dell'antifascismo. Io credo che questo ministro dimostri tutta la sua intolleranza nei confronti di questo straordinario valore e principio che noi difenderemo da cittadini democratici in tutte le forme possibili. Io credo che sabato sarà una manifestazione di grande spessore, di grande valenza sociale e politica, che non riguarderà solo la partecipazione del sindacato. Noi siamo sicuramente promotori di questa iniziativa, avendo raccolto l'appello delle RSU di quel territorio, che subito si sono mobilitate per tenere alta l'attenzione. Stanno arrivando tantissime altre adesioni dalla società civile, dall'associazionismo, e ci aspettiamo che i consensi a questa iniziativa aumentino di ora in ora.